Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, anche per parlare di quello che sta succedendo nell'Italia dei valori, la crisi dei partiti e in particolare di quel partito. Chiederemo conto anche dell'inchiesta che fa oggi Panorama. Avete sentito nel nostro Bar in Onda dure parole, dure accuse a Rosario Crocetta e rapporti con la mafia. Questa è la copertina di Panorama oggi. Poi parleremo ancora di questo iter delle province che devono essere tagliate, ma che in Parlamento questo decreto non si sa dove vada a finire. Qualcuno in maniera molto chiara in Parlamento dice andrebbe affossato. Ne parliamo più avanti, ora i giornali, appunto. È giovedì 22 novembre. I titoli sono declinati per la maggior parte sul tema produttività, l'accordo firmato ieri da tutti tranne che dalla CGIL, intesa sulla produttività sia i fondi, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, per il Corriere invece accordo sui salari senza CGIL, Repubblica produttività, accordo senza la CGIL, La Stampa produttività sia l'intesa ma senza CGIL. Produttività firma senza CGIL apre così il secolo XIX. Insomma, come vedete, questi sono i giornali che aprono su questo tema, così come il Messaggero, accordo sulla produttività. Libero invece per il redditometro, i poveri sono evasori. Il Fatto Quotidiano, caso Mondadori, il PDL vuole il quarto grado di giudizio. L'Unità intervista Renzi, una nuova terza via, questo è il titolo di apertura. Pubblico invece, Occupy Scuola, istituti occupati in tutta Italia, il tema scuola, e sabato ci sono nuove manifestazioni. Per il manifesto, dov'è la pace? La vicenda Medio Oriente, tacciono le armi, così anche sul Medio Oriente Avvenire, mentre il giornale, gli italiani nascondono 30 miliardi in casa, non ci sono più soldi. Voglio partire però da ciò che il Corriere della Sera mette in prima pagina, con un'analisi, a firma Sergio Rizzo, di quello che sta succedendo alla Regione Lazio, dove sapete che si deve andare a votare perché ci sono state le dimissioni, la giunta è decaduta, ma c'è la cosiddetta ordinaria amministrazione. Già, che cosa deve fare una regione durante l'ordinaria amministrazione? Se lo chiede Sergio Rizzo, giunta dimissionaria, milioni a pioggia, questo è il titolo dell'articolo. Qual è il confine dell'ordinaria amministrazione? Si chiede Sergio Rizzo. Domanda inevitabile. Scorrendo le 90 delibere che la Regione Lazio ha approvato dopo le dimissioni dei suoi vertici, un esempio. Rientra nella cosiddetta ordinaria amministrazione un accordo sindacale per la valutazione della produttività dei dipendenti della giunta da cui dipende l'erogazione di incentivi economici e che prevede per tutti almeno la sufficienza? Avete capito bene. Non è contemplata l'esistenza di asini o fannulloni. La scheda valutativa che i dirigenti della regione dovranno compilare ha cinque caselle: sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. Quella specie di sei politico-sindacale che garantirebbe a tutto il personale del governo regionale almeno il 75% del premio di produttività. Questo dice l'intesa. Oppure possono essere catalogate come semplici atti dovuti le varianti ai piani regolatori, le delibere urbanistiche sfornate dal vicepresidente Luciano Ciocchetti, ex parlamentare UDC, come i cambiamenti di destinazione d'uso di alcuni immobili dell'agglomerato industriale di Castel Romano, che consentiranno la nascita di centri commerciali, oppure la riconversione dell'ex stabilimento Banci Sud di Pomezia, richiesta dalla società Goodwin Re, amministrata dall'avvocato Giovanni Lombardi Stronati, professionista un tempo in rapporti d'affari con Marco Squatriti, o ancora le compensazioni edificatorie, traduzioni palazzine, di Casal Lumbroso nel comune di Roma, le varianti dei piani regolatori di Sutri, di Bolsena nel Viterbese per consentire rispettivamente la costruzione di una chiesa e di strutture turistiche, le delibere urbanistiche relative a Ronciglione, Zagarolo, Capranica, Contigliano, tutta roba che viene da vecchie decisioni dei comuni, il cui iter era già da tempo in atto, ma non si doveva ratificare tutto prima? Ecco, E poi i finanziamenti a fondazioni, 20.000 euro all'associazione Metamorfosi presieduta dall'ex deputato di Rifondazione Pietro Folena, 30.000 euro per la settimana degli sport acquatici affidata alla Federazione Nuoto del senatore PDL Barelli, 270.000 euro all'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, atti dovuti, certo. Scrive Rizzo, o 442.000 euro a una cooperativa edilizia azzurra di Nettuno. Insomma, finanziamenti a pioggia, delibere, modifiche al piano regolatore, licenze e sovvenzioni. Ecco l'addio milionario della giunta Polverini. Sul Corriere della Sera Sergio Rizzo racconta: ma è davvero tutto questo amministrazione che bisogna fare, dovuta in vista delle nuove elezioni, oppure è un qualcosa che forse in questo momento in cui la giunta di fatto è in carica ma è decaduta politicamente non sono il caso di prendere? Come invece vi voglio sottolineare una proposta che Mario Giordano fa dalla prima pagina di Libero. Vai ovviamente a trovarla, questi giornali che si imboscano. Eccolo qua, Mario Giordano su Libero. Togliamoli subito. Che cosa? Ci sono 200 persone in Italia, 200 ex politici, che prendono non un vitalizio, ma due vitalizi. Cumulano perché hanno un vitalizio da ex parlamentare e hanno un vitalizio da ex consigliere regionale. I doppi vitalizi dei politici, offesa alle pensioni degli italiani. Mario Giordano in prima pagina di Libero. Scrive: avrei una modesta proposta da fare nell'attesa di intervenire più seriamente sui vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali. Non potremmo cominciare a evitare che qualcuno ne prenda due? Ci sono in Italia circa 200 super fortunati, e tra poco faremo anche qualche nome e cognome, che sommano la pensione da ex parlamentare a quella da ex consigliere regionale. Un doppio privilegio che è decisamente troppo. Qualche nome. Eccoli qui, li trovate poi a pagina 7. Per esempio, Paris Dell'Unto, ex macchina da voti del PSI laziale, 8.455 euro da ex parlamentare e 9.000 da ex consigliere regionale. Insomma, arriva a 17.000 rotti euro. Perché in nome del bene comune non può sacrificare uno dei due assegni? Chiede Giordano. O il banchiere Giuseppe Guzzetti, presidente delle casse di risparmio, 8.000 euro da ex consigliere regionale, 4.725 da ex parlamentare. Giulio Maceratini, 9.947 dal Parlamento e 5.616 da ex consigliere del Lazio. Ma l'elenco prevede anche Mario Capanna, 5.000 euro come ex consigliere regionale della Lombardia, 4.725 da ex parlamentare. Nel 68 voleva la rivoluzione, avrà problemi adesso a sostenere un moderato principio di giustizia sociale? Si chiede Giordano, Mario Capanna. Elio Veltri, non è forse un paladino della lotta ai privilegi? Colui che ha accusato anche Di Pietro al Report. Perché in Camera ben due vitalizi lui? 4.000 euro come ex consigliere regionale della Lombardia, 3.108 come ex parlamentare. Nicola Mancino, 9.900 euro, facciamo 10.000, arrotondiamo, come ex parlamentare. Ma lo è ancora parlamentare. Più il vitalizio come ex consigliere regionale della Campania. E ancora Antonio Bassolino, Pietro Bassetti, Alfredo Vito. So qual è l'obiezione di questi, dice Giordano, i diritti acquisiti non si toccano. Ma chi l'ha detto, visto che i diritti degli italiani sono stati toccati? 200 col doppio vitalizio sono un'offesa ai pensionati. Di Mario Giordano su Libero propone almeno uno dei due vitalizi, togliamolo. Vi lascio con questa domanda: è una proposta giusta oppure no? Ma è domanda che già vi vedo come al solito con i pugni sul volante, ma tenete la mano ben salda perché è importante per la guida, non vi arrabbiate, andate tranquillamente a lavorare e voi magari la pensione non la prenderete neppure, ma calma, tranquilli. 24 mattino. Eccoci alle 7.36 minuti. Allora, ieri c'è stato l'accordo firmato da tutte le parti sociali tranne la CGIL sulla produttività. l'accordo che scrive Nicoletta Picchio a pagina 3 è stato salutato anche dal premier Mario Monti in maniera entusiasta, cioè i complimenti per l'eccellente duro lavoro di 2 mesi. Così si era allegrato il premier Monti con le imprese e i sindacati, sottolineando come non sia stato facile trovare l'intesa, un passo importante per rilanciare le imprese, i lavoratori, la tutela dei lavoratori sul tema della produttività. Un accordo che prevede vari punti, li trovate tutti sul Sole 24 Ore, li trovate anche su vari giornali. Il Corriere della Sera, per esempio, li mette a pagina 11. Che cosa prevede alcune parti? Intanto verrà depotenziato il contratto nazionale, verranno rafforzati quelli di secondo livello, le parti sociali potranno scegliere di quale secondo livello discutere, o quello territoriale, più congeniale alle piccole e medie imprese, o quello aziendale preferito dalle grandi. Si è stabilito che il contratto collettivo nazionale dovrà perseguire la semplificazione normativa e prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione. È possibile anche, secondo questo accordo sulla produttività, al punto 7, le norme più chieste dalle imprese e più osteggiate dalla CGIL, scrive il Corriere della Sera, le norme che il ministro Fornero e il ministro Passera hanno indicato come fondamentali, vale a dire si tratta del demansionamento e della flessibilità degli orari, due nuovi istituti contrattuali che potranno essere introdotti ma solo facendo ricorso alla contrattazione collettiva, nel senso che l'imprenditore non potrà adottarli in modo unilaterale. Il primo è il demansionamento, cioè potrebbe far sì che un'azienda in crisi dirotti alcuni dipendenti su lavori inferiori alla loro qualifica, per esempio nel caso delle banche, quadri che vanno a fare gli sportellisti, e con anche una decurtazione dello stipendio, questo ovviamente in situazioni di crisi, mentre finora le imprese dovevano licenziare i dipendenti in esubero e riassumerli con una qualifica diversa. Insomma, ci sono tanti termini, questo sul demansionamento e quello su cui soprattutto ha rotto la CGIL, una Susanna Camusso data molto per infuriata, tanto che in un retroscena racconta Roberto Giovannini sulla Stampa, pagina 4, a un certo punto Monti l'ha anche chiamata, voleva che prendesse parte comunque alla conferenza stampa, pur non avendo firmato l'accordo. Il premier Monti, scrive Giovannini, è quasi accorato nel suo appello, esprimiamo il vivo auspicio che l'intesa possa essere estesa anche alla CGIL. A un certo punto chiarisce che avrebbe voluto in conferenza stampa anche Susanna Camusso, lei invece se n'è andata molto arrabbiata, appare furiosa, racconta la Stampa, per quella che giudica una cosa antipatica che mostra il carattere autoritario del premier. Mi voleva far parlare, racconta Camusso, dopo di lui, Squinzi e Bonanni, e prima delle conclusioni di Passera, uno show. Dottoressa Camusso, mi ha detto Monti, non vuole mettere alla prova la capacità del governo di sopportare la critica? Questa è la frase che la Stampa dice, ci riferisce alla Camusso, gli avrebbe detto Mario Monti chiamandola. Insomma, un battibecco che è andato avanti così. Forse il leader della CGIL ha interpretato come paternalistica la replica di Monti alla richiesta CGIL di detassare le tredicesime. Non è possibile, gli ha risposto Monti, non lo consentono le condizioni della finanza pubblica, spero che i futuri governi abbiano il cuore meno raggrinzito. Avete sentito come Monti avrebbe risposto alla Camusso? Spero che i prossimi governi abbiano il cuore meno raggrinzito del mio. Il solito, se è vera questa frase riferita a Camusso, il solito humor molto molto gelido da parte di Mario Monti. Detassare le tredicesime? Speri nei prossimi governi che abbiano il cuore meno raggrinzito del nostro. Comunque Susanna Camusso per questo non è andata alla conferenza e non ha firmato la CGIL. Una proposta che riguarda molto gli italiani, molte richieste di italiani in questo senso, potrebbe concretizzarsi, così almeno scrive su Repubblica Valentina Conte, ricevute e fatture potranno essere scaricate. È un po' la richiesta e il sogno di molti italiani, l'incubo forse di quelli che ti dicono ricevuta oppure facciamo uno sconticino. Potrebbe essere per molti italiani il modo per invogliare le persone a chiedere sempre ricevute e fatture. Scrive Valentina Conte a pagina 4 di Repubblica, chiedere la fattura all'idraulico, la ricevuta all'elettricista, lo scontrino al carrozziere e trarne un vantaggio fiscale scaricando i costi della dichiarazione dei redditi. così da ridurre il nero, tamponare l'evasione, pagare tutti per pagare meno tasse. Se ne parla da tempo, ora è arrivato un emendamento del PD approvato ieri in Commissione Finanze al Senato che introduce il contrasto di interesse nella delega fiscale. E questo è la traduzione, il contrasto di interesse, cioè invogliare, incentivare la possibilità di richiedere gli scontrini e fatture per poi scaricarli dal punto di vista fiscale, trarne un vantaggio. Si riuscirà questa strada? Chi lo sa? Tuffiamoci nella politica. La politica ovviamente è, per quel che riguarda il centrosinistra, gli ultimi giorni prima delle primarie. Oggi il Sole 24 Ore, e trovate l'articolo a pagina 20, propone un sondaggio CISE-LUIS. In questo sondaggio sono le intenzioni di voto, sono stati interrogati un campione di italiani del periodo 22 ottobre 13 novembre, 1524 casi intervistati. Il risultato, secondo questo sondaggio, con un commento di Roberto Dalimonte che trovate sul Sole, Bersani sarebbe in testa con il 48,2% delle preferenze di chi andrà a votare alle primarie e quindi quasi vicino anche alla soglia del 50% per vincere al primo turno. Renzi al secondo posto al 37,6%, dunque 10 punti percentuali dietro. Vendola ben distaccato al 9,9%, poi Laura Puppato al 3,4%, Tabacci allo 0,9%. Secondo questo sondaggio il 32% degli intervistati è certamente interessato ad andare a votare, un altro 7% lo considera possibile, un dato altissimo secondo l'analisi di Roberto Dalimonte, ma certo Bersani avanti su Renzi di 10 punti, questo è il titolo del Sole 24 Ore per questo sondaggio. Sta di fatto che sono le ultime schermaglie, sono gli ultimi confronti. Ieri Bersani ha detto il consiglio, tra virgolette, a Mario Monti è stia fuori dalla mischia. Ha detto anche Bersani dobbiamo mostrare al mondo, noi Italia, che non esiste solo Monti, è un modo come per dire, forse è lo spauracchio maggiore per Bersani o per chi vincerà comunque nel centro-sinistra, l'ipotesi di un Monti bis, anche perché a guardare dall'altra parte quello che succede nel centro-destra sembrano soprattutto macerie più che altro. Ieri è stata una giornata, raccontano tutti i giornali, ancora di tensione tra Alfano e Berlusconi sul concetto delle primarie. Queste benedette primarie nel centrodestra non si è ancora capito se si faranno oppure no. Ufficialmente si faranno e sono state posticipate al 13 gennaio. Questa è l'unica cosa che è riuscito a conquistare, pare, Berlusconi nel faccia a faccia che raccontano i giornali, teso con Alfano. Addirittura nel retroscena di Francesco Bei su Repubblica, per il Cavaliere è tutto finito, non si fanno neppure tra due mesi, questo è il titolo. Berlusconi avrebbe detto ad Alfano: ma Angelino, lo dico per il tuo stesso bene, accetta il mio consiglio, ma perché non smetti con questa follia delle primarie, fai una bella convention e chiudiamola lì. Ecco, questo avrebbe detto Berlusconi. E Alfano, dopo aver minacciato le dimissioni, come dire, ma presidente, usciamo da questa riunione e che diciamo, abbiamo scherzato? Magari più che altro, perché non interviene su qualche candidato per farlo recedere da questo tentativo di entrare nelle primarie? Per esempio, chiama Samori, questo Samori, questa è la ricostruzione di Repubblica che trovate a pagina 9. Non puoi dire a Giampiero Samori, almeno a lui, di rinunciare, a qualcun altro di rinunciare. Vabbè, insomma, questo confronto alla fine pare che Berlusconi abbia ceduto sempre col solito tono, come dire, vabbè, fatele pure, senza crederci neanche per mezzo secondo. D'altronde, che sia una situazione un po' di sgretolamento nel centrodestra lo si capisce da una serie di interviste. Giorgio Stracquadagno, uno che è stato l'uomo tra i più fedelissimi di Berlusconi, sentite come parla al Fatto Quotidiano. Berlusconi non è più lui, più ci penso e più mi accorgo che è un altro uomo, intervistato da Fabrizio D'Esposito, è un altro uomo, ebbene sì, non è più lui, è un uomo che non prende atto che il suo ciclo è finito, ha una deriva autodistruttiva, lepenista, resta un fenomeno politico. Ma comunque Monti è l'uomo nuovo, c'è Stracquadagno che dice Monti è l'uomo nuovo, così Frattini, intervistato dal Corriere della Sera, solo con Monti federatore i moderati posso vincere, quindi Frattini per Monti. Ma la migliore è Isabella Bertolini, una che per anni è stata la fedelissima di Silvio Berlusconi, ha fatto ieri un comunicato per dire: Berlusconi è come Schettino. In tutto questo sgretolamento di quello che succede nel centrodestra, pare, secondo Libero, che Berlusconi abbia trovato il nuovo nome. Questa ve la dico così. Ha registrato il logo a Bruxelles e si chiama Italia che lavora. Questo lo scrive Franco Bechis a pagina 11. Il Cavaliere registra il nome della possibile lista di imprenditori, Italia che lavora. Ma ci sono altri due marchi, il centrodestra italiano, solo che il centrodestra italiano, anche Libero scrive in acronimo, è ICI. E no, cambiare subito. Vabbè che adesso si chiama IMU, però ICI, colui che ha voluto togliere l'ICI, l'IMU, ICI, il centrodestra italiano, no. Se no Berlusconi torna in politica, cioè scende in politica e rimette l'ICI nel momento in cui scende in politica. Il centrodestra italiano, il centrodestra italiano non va bene, ICI no, meglio Italia che lavora. Ultime news dal sequestro Spinelli è questa, scrivono Ferrarella, Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella dal Corriere della Sera, pagina 23. Sapete che sono arrivati con una chiavetta i sequestratori dicendo: in questa chiavetta ci sono delle prove che ribalteranno il giudizio Mondadori. Ci dovete dare per questo 35 milioni di euro. Queste prove sarebbero state anche Fini a cena, ripreso a cena con dei magistrati, Carlo De Benedetti, eccetera. Ebbene, nella chiavetta non c'era niente. Questo è il titolo del Corriere. Nuovi dubbi sul sequestro Spinelli. Volevano 35 milioni da Berlusconi, ma in mano avevano niente. Era vuota la chiavetta informatica che i banditi, come presunto tesoro da scambiare con l'ex premier, sventolarono davanti al ragionier Giuseppe Spinelli nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Quel supporto informatico, emergono dagli interrogatori, c'era un bel niente. Un bel niente in cambio di 35 milioni. Mica male, hanno tentato davvero una lotteria. Allora, c'è da parlare di quello che è successo ieri col ministro Elsa Fornero e una iena, Filippo Roma, che l'ha inseguito. L'abbiamo fatto sentire l'audio alle 6.30, Filippo Roma che chiedeva delle domande e Elsa Fornero che è letteralmente fuggita dal congresso dove doveva parlare. Domanda sui suoi precari e la Fornero scappa via, così titola Libero. La Fornero litiga con le iene, litiga più che altro, ha fatto scena muta, la loro è solo aggressività, così poi hanno fatto un comunicato al ministero dicendo così è solo aggressività, iene in sala e Fornero se ne va, troppa pressione psicologica. Che ne pensate? Insomma, ha fatto bene, ha fatto male? Per Filippo Facci su Libero ha fatto bene, ha fatto benissimo. Mentre per Luca Telese per esempio ha fatto male, scrive Filippo Facci: la ragione si dà ai tecnici, la Fornero è insopportabile ma ha quasi sempre ragione, noi ci incazziamo perché i politici non dicono la verità, parlano in politichese, fanno giri di parole, ma fanno bene. Se dire pubblicamente la verità ogni volta conduce a polemiche, presunte gaffe, beh, allora fanno bene. Ieri la Fornero ha abbandonato una conferenza stampa perché una iena la vessava con domande che non c'entravano niente. Ha fatto bene, ma non si può dire. Agli italiani piace l'uomo che dice la verità, ma se non è la loro, quella è un uomo, quello è un uomo morto. Insomma, dice, ha fatto bene Filippo Facci, mentre Luca Telese su Pubblico attacca Fornero antistampa, Elsa la Ciusi ministra, stavolta contro le iene. Racconta anche un episodio Luca Telese: un mese fa facevo la rassegna stampa su Radio 3, e vabbè, si può dire, per carità. E finita la conferenza stampa in cui parlavo di un convegno con cui la Fornero era contestata, mi suona il telefonino, era il ministro Fornero. Ma insomma, lei ha dato un'informazione incompleta. Lei ha parlato di quelle donne che mi contestavano e non ha detto nulla sulle 100 che mi hanno ascoltata. Al che Telese dice: beh, ma nessun giornale farebbe il titolo 100 donne ascoltano rapite la Fornero. La ministra però mi aveva stupito di nuovo. Ma lei sa come sono fatta io? Sa che ho accettato di tenere un convegno a Napoli pur sapendo che si tratta di Napoli? Al che Luca Telese dice: sono rimasto stupito, gli avevo chiesto cosa intendesse, io ho un padre napoletano, sono molto suscettibile a queste argomentazioni etniche, e lei mi aveva spiegato, mi ha capito, accetto di andare a Napoli pur sapendo che il clima della piazza è quello che è, che rischio di essere contestata. La Fornero era sincera, scrive Telese, davvero non si rendeva conto che se uno vuole fare il ministro della Repubblica è ministro in tutto il paese, non solo nella collina torinese dove gli amici le sorridono con un calice di vetro in mano. In qualsiasi paese del mondo un ministro che avesse detto sono torinese, dunque abituata a lavorare, avrebbe ricevuto un monito del Presidente della Repubblica. E poi insomma continua l'articolo di Telese che ricollega e ricorda dal pianto alla paccata di miliardi, le caramelle per gli esodati, alle crisi per le domande dei giornalisti, insomma il rapporto tra Elsa Fornero e i giornalisti. Ministro Fornero, se vuole qui è invitata, non ascolti la rassegna stampa di Rai 3, ecco, ascolti la rassegna stampa di Radio 24 e qui se vuole è invitata a fare domande pacate senza iene sull'attualità. Ci fermiamo qui? Sì, giornale radio.